Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, grazie per essere in nostra compagnia. Andiamo subito ai titoli del nostro sommario, ma prima voglio ringraziare Giorgio Mattè in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi come sempre in redazione. Giorgio, partiamo. Se proteggi gli occhi, proteggi la vista. Prendi il sole, ma evita le macchie. Stai al fresco senza rischiare. Vi mettete la crema quando andate in spiaggia o in montagna? L'avete messa questo weekend? Bene, io credo di sì, insomma, perché nel tempo siamo diventati tutti più attenti e ligi alle indicazioni dei dermatologi. Insomma, stiamo iniziando a comportarci bene, o ci proviamo. Ma adesso a lamentarsi sono gli oculisti. E dato che ho un rappresentante della categoria qua in studio con me, ve lo presento, è il dottor Francesco Loperfido, responsabile degli ambulatori di oftalmologia generale dell'unità operativa di oculistica dell'Istituto Scientifico San Raffaele e consulente oftalmologo della Commissione Difesa Vista. Buongiorno dottor Loperfido. Buongiorno a voi. Dicevo, già che qui io approfitto subito per chiedere a lei perché vi lamentate, siete così preoccupati, ci tirate le orecchie. Perché mentre quando la pelle brucia il paziente se ne accorge immediatamente, l'occhio si lamenta per ultimo, ma quando si lamenta veramente sono dolori. Allora dottore, vedrà che accontenteremo anche voi oculisti, ma lei ci renda il compito più facile, ci invogli insomma, raccontandoci i vantaggi nel breve e nel lungo periodo della protezione, la metterei in positivo. Ma il concetto è che proteggere l'occhio significa soprattutto conservare a lungo un occhio sano. Positivamente bisogna dire che la cornea, il cristallino sono, e la retina sono elementi che già con l'età tendono a invecchiare e a modificare le proprie strutture, e il sole non fa altro che incrementare nel tempo questo invecchiamento. E allora un occhiale serve a preservare non solo al momento ma anche per il futuro. Allora, dicevamo che dottor Loperfido, la pelle scotta, ci avverte che il sole ci sta dando fastidio, gli occhi non dicono nulla, ma poi quando si lamentano lo fanno per bene. Allora, nel programma di oggi noi cercheremo di dare a tutti i nostri amici da casa, intanto vi ricordo il nostro numero verde perché potete come sempre intervenire, 824 0024. Oggi vi daremo tante indicazioni. Volendo fare un piccolo sommario, allora dottor Loperfido, noi inizieremo a capire come proteggere i nostri occhi, quindi occhiali da sole, come sceglierli. Certo, come scegliere gli occhiali da sole in base non solo all'età ma anche al motivo per cui viene scelto un occhiale da sole. Andare in montagna, andare al mare oppure essere in città può richiedere occhiali completamente differenti. Proveremo anche a dare dei consigli a chi alterna occhiali e lenti a contatto. L'estate è una stagione particolarmente a rischio. Certo, perché bisogna abbandonare le abitudini di sempre a lenti a contatto, perché molto spesso l'estate richiede dei parametri completamente diversi nell'uso delle lenti a contatto. Quindi se per fare sport magari decidete di accantonare gli occhiali e utilizzare le lenti a contatto, chiamateci subito perché il dottor Loperfido ha delle raccomandazioni per voi. Ma direi, dottore, che io vorrei approfittare della sua presenza anche per parlare di alcune patologie oculari che proprio in presenza di questa luce più forte possono riacutizzarsi o risvegliarsi e quindi darci qualche problema. Prevenire sempre meglio che curare. Allora, il messaggio è giusto, prevenire è fondamentale più che curare. Noi siamo in presenza dell'ultravioletto, quindi dell'UV, ed è proprio l'UV una delle cause maggiori dei fastidi, insieme a un'altra luce che di cui poco si parla, che è la luce blu, che è una luce presente tra l'ultravioletto e il visibile e che anche essa è dannosa non solo a livello della cornea ma nel tempo anche a livello del cristallino, e vuoi è una concausa anche del determinare un invecchiamento retinico. Intanto, per come si dice non saperne leggere né scrivere, diteci se già quest'estate avete iniziato ad avvertire qualche piccolo problema. Magari non avete protetto in modo adeguato i vostri occhi, avete fatto qualche pasticcio nel gestire le lenti a contatto. Ecco che avvertite dei piccoli disturbi. Spesso noi diciamo, vabbè, ci dormo su, mi sciacquo gli occhi. Allora, vediamo con la nostra scheda se vi riconoscete in uno di questi profili, di queste indicazioni. Così voi ci chiamate, il dottor Loperfido subito vi dà un'indicazione. ti dà fastidio la luce? Quando in particolare? Alla fine di una giornata passata all'aria aperta, noti che i tuoi occhi sono arrossati? Il rossore si accompagna a dolore? Bruciore? Ti sembra di vedere meno bene? Hai l'impressione di avere poche lacrime? O di averne troppe? Per trovare un'indicazione o una risposta a tutti i vostri dubbi, 800 24 0024. I messaggi 349 238 6666. Una mela al giorno. Macchie possono comparire sul viso, sulle mani, sul décolleté, lo sappiamo, non sono belle a vedersi, si possono anche eliminare, ma soprattutto in questo momento in cui il sole ci bacia, vanno protette in modo adeguato usando prodotti ad hoc. Li scegliamo insieme alla dottoressa Riccarda Serri, che è dermatologa e presidente di Skineco, l'associazione di dermatologia ecologica. Dottoressa Serri, buongiorno. Buongiorno. Dottoressa Serri, lei deve aiutarci non solo a utilizzare il prodotto giusto, ma proprio seguendo la filosofia di Skineco, imparare a scegliere quei prodotti che non solo rispettano la nostra pelle, che è sicuramente fondamentale, ma rispettano soprattutto l'ambiente. È molto importante cercare di dirigersi verso una nuova cosmesi che sia dermo-eco-compatibile, cioè che faccia bene alla pelle, che sia efficace, quindi funzionale, estremamente scientifica, ma anche che non danneggi l'ambiente. Allora, andiamo alle nostre macchie, seguendo appunto queste regole. Verso quali prodotti ci orientiamo? Possiamo prenderlo il sole? Certamente, il sole è vita, per cui io non parlerò mai male del sole. Però il sole, effettivamente, soprattutto in eccesso, soprattutto su certe pelli chiare nordiche, può causare un'iperproduzione di melanina, che sono appunto queste macchie, che vengono proprio nelle zone esposte al sole, alla luce, il viso, il décolleté, il dorso delle mani, gli avambracci. Quindi per prevenirle in realtà bisognerebbe evitare l'eccesso di esposizione al sole, soprattutto negli orari centrali della giornata, quindi fra le 11.30 e le 16 circa, o applicare preventivamente, sin dalla giovane età, delle belle protezioni alte. Non dico totali, perché totali non esistono più, si chiamano 50 più ormai le totali, ma delle protezioni, diciamo, medie, medio-alte, questo sempre preventivamente. Una volta che le macchie si sono formate, si possono togliere o con diversi metodi, diciamo, di ambulatoriali che vanno dal laser a altri tipi di trattamenti, oppure si possono schiarire con delle sostanze particolari che non sto qui adesso a elencare, ma perché sono comunque di pertinenza medica. Quando noi le abbiamo e dobbiamo andare al sole, è opportuno, prima dell'esposizione solare, applicare dei prodotti antiradicalici, antiradicali liberi, che hanno un'azione di protezione delle cellule della pelle dal danno solare. Questi sono quelli a base di vitamina C, a base di tutti i derivati della vitamina C, a base di vitamina E, a base di polifenoli, a base di resveratrolo, che è quell'antiossidante simpaticissimo che viene dall'uva, insomma ce ne sono diversi. Applicare quello e sopra quello mettere la protezione, abbondando nel fattore di protezione laddove ci sono le macchie. Ci sono anche macchie che compaiono in un periodo particolare della vita di una donna, che è la gravidanza. E allora molte donne cercano, non sanno se esporsi, molte mamme col pancione non sanno se esporsi oppure no al sole. Si può? Esatto, si chiamano cloasma gravidi, come l'asma, e vengono sì in gravidanza, ma possono venire anche in momenti che con la gravidanza non c'entrano assolutamente nulla. Certo che ci si può esporre al sole, ma una donna incinta non deve stare mai troppo al sole, deve proteggersi, e la donna incinta deve proteggersi possibilmente con prodotti solari contenenti filtri esclusivamente minerali, limitando quelli che sono i filtri chimici. Quindi ricorrere a prodotti solari destinati proprio ai bebè, quindi per pelli sensibili con filtri minerali. Questi filtri minerali sono ossido di zinco e biossido di titanio. La protezione solare rappresenta il trattamento più efficace per la prevenzione del cloasma gravidico. Teniamo anche presente che in genere dopo la gravidanza, se non si è abbondato col sole, il cloasma tende a diminuire fino a sparire del tutto, cosa che non succede con le macchie a tipo melasma che si formano non in gravidanza. Comunque la protezione solare per almeno 18 mesi, inverno e estate, è il trattamento più efficace, abbinato all'uso di molecole schiarenti, molecole antiradicali liberi, come dicevo prima, vitamina C, polifenoli, vitamina E, e molecole lenitive. Dottoressa Serri, la saluto, le auguro una buona giornata. Grazie mille a voi, buona giornata e a prestissimo. Grazie, buona giornata a lei. Pronto soccorso. E torniamo ad occuparci del tema del giorno, parliamo degli effetti della luce sui nostri occhi. Per imparare a proteggerli, ma chiamateci anche per segnalarci tutti quei piccoli disturbi che a torto o ragione pensiamo derivino da una protezione insufficiente, non adeguata. 800 24 00 24, in studio pronto a darci una mano a tutelare la salute della nostra vista, perché dottor Lo Perfido, se noi proteggiamo bene gli occhi, proteggiamo anche la vista. Assolutamente sì, perché non solo l'occhio diventa rosso, ma molte volte si ha un calo di efficienza non solo dell'acuità visiva, ma anche al contrasto della luce, passaggio luce buio. Per questo abbiamo proprio inserito nella nostra scheda alcuni segnali, e quindi se vi riconoscete, mi raccomando, chiamateci. Prima di parlare degli effetti della luce, perché sentiamo parlare molto di questa luce blu, e allora dottor Lo Perfido, lei ci deve spiegare bene che cosa fa, che come danneggia il nostro occhio. Darei la parola a Gianni da Bari. Buongiorno Gianni, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Gianni, lei li mette gli occhiali da sole? Raramente, quando esco in bici. Io volevo fare una domanda all'oculista. Sì. Volevo chiedere se le lenti a contatto proteggono l'occhio dal sole, perché io le uso spesso. Bene, sì, le lenti a contatto, esistono delle lenti a contatto che hanno anche un trattamento anti-UV, quindi hanno una protezione comunque relativa, perché noi dobbiamo sapere che una lente a contatto comunque tende a modificarsi, perché magari si disidrata, perché magari ce l'ha da lungo tempo, e quindi il vantaggio di una lente a contatto è comunque limitata, per cui si consiglia sulla lente a contatto di avere comunque un occhiale da sole. Ecco, torniamo a questa luce, alla luce blu. Sì. La luce blu è molto subdola. La luce blu è molto subdola perché chiaramente lo si rileva più in alta montagna, ma comunque anche con il sole della città, ed è questa luce particolarmente fastidiosa che è presente tra l'ultravioletto, quindi tra l'UVA e il visibile. Questa luce blu è quella che penetra molto più profondamente, perché mentre l'UVA colpisce e determina dei danni soprattutto sulla superficie della cornea, quindi sull'epitelio corneale, la luce blu invece ha una capacità di penetrare giungere verso il cristallino e anche superare la barriera del cristallino, giungendo verso il vitreo prima e la retina dopo. E noi non ce ne accorgiamo subito di questi effetti? No, perché sono i cosiddetti effetti accumulo, cioè nel tempo l'accumulo di questo irraggiamento può determinare un precoce invecchiamento e quindi una facilità anche a una cataratta un po' più precoce. Dottor Lo Perfido, voi suggerite di portare gli occhiali da sole, specie in estate, ma lei già in apertura ha detto: attenzione, ci sono diverse situazioni, bisogna vedere se uno va in montagna, al mare, se guida, se sta in città. Occhiali da sole per tutti, quindi, o li inforchiamo solo quando avvertiamo fastidio alla luce? Beh, inforcarli quando abbiamo fastidio alla luce significa non fare preventiva, fare solamente aggredire un problema, invece bisogna prevenirlo il problema. Quando scegliamo un occhiale da sole vanno scelti presso centri competenti, quindi verso l'ottico, a cui si esternano i propri problemi, cioè io vado in alta montagna oppure vado in condizioni di estremo caldo come magari in Egitto, in queste due realtà diverse io ho bisogno degli occhiali che si modificano, che cambiano completamente la loro capacità di assorbenza dell'UV. Quindi dobbiamo rivolgerci all'ottico, raccontare un po' dove un po' della nostra vita. Deve diventare quasi un amico, no? Dobbiamo raccontargli un po' dove andremo in vacanza, se siamo degli sportivi, se andremo in montagna, se visiteremo città d'arte, perché l'occhiale diventa un po' come un abito cucito su misura? Assolutamente sì, e soprattutto se uno ha problemi visivi, poi è anche l'oculista che insieme all'ottico vanno a ottimizzare l'occhiale da sole, perché è indubbio che l'occhiale deve, per esempio in montagna noi abbiamo un 90% dell'ultravioletto e abbiamo un'alta quota di luce blu, quindi occorrono degli occhiali che siano che proteggano totalmente, per esempio lenti come le lenti alla melanina, e che magari siano montature avvolgenti, perché la montatura avvolgente ci protegge anche dal vento, che in questo caso asciugherebbe l'occhio creando ulteriori problemi. Come Commissione Difesa Vista avete stilato una sorta di vademecum, noi l'abbiamo riportato sul sito, lo troverete sull'home page della trasmissione dopo la trasmissione, ma potete anche consultare il sito della Commissione Difesa Vista. Allora, abbiamo Andrea da Bologna e Silvio da Venezia che ci aspettano e che quindi farei subito entrare, e dopo, dottor Loperfido, entriamo nel negozio dell'ottico e vediamo le lenti che ci sono a disposizione, perché oltre alla proprio il materiale delle lenti conta anche in alcuni casi il colore. Mi riferisco alle persone che hanno magari problemi visivi. Andiamo Andrea da Bologna. Ecco, buongiorno Andrea. Buongiorno. Eccolo. Una domanda, anzi due. Sì. In che misura l'alimentazione e o / gli integratori, ad esempio integratori di mirtillo, il principio antocianosidico, no, del mirtillo, del mirtillene, possono proteggere, per, come nel mio caso, ho avuto un intervento un po' di anni fa, una core retinite sierosa laterale da stress, vabbè, in questo caso. Sì. E la mia domanda è anche questa: è meglio, si sa che il mirtillo è stato preso in considerazione, da quel che ho letto, mi sono un po' documentato, sulla Seconda Guerra Mondiale, perché appunto parte dei piloti facevano guida notturna, avevano una visibilità migliore, facevano colazione col mirtillo, e da lì è cominciata la ricerca, quindi il principio antocianosidico, benissimo. Ma arriva prima, tra virgolette, è assorbito meglio quel principio antocianosinico di un integratore? Io non posso far nomi, me ne rendo conto, siamo in una radio, ok, si parlerebbe di pubblicità, quindi oppure una famosa casa erboristica italiana che fa un concentrato, che non è un succo di frutta, attenzione, no? Questi concentrati, boccettini da conservare in frigorifero con tanto di cucchiaino di plastica, quindi è meglio un principio antocianosinico, magari più morbido, più scarso a livello di titolato, di percentuale, arriva prima, è meglio assorbito, o è assorbito meglio quello di un integratore, però con un titolo maggiore in termini di percentuale? Andrea, lei è un super tecnico. Dottore, poi andiamo alla seconda domanda, perché ho paura, sennò che il dottor Loperfido si confonda. Allora, iniziamo dal mirtillo. Innanzitutto, bravo, è giusto, il mirtilene, il mirtillo, è stato usato dai piloti della RAF, ma per un motivo molto semplice, perché avevano notato che gli anticianosidi consentivano soprattutto di vedere molto meglio di notte. Quindi questo concetto ci fa capire una cosa, che non serve a proteggere, ma a migliorare il passaggio luce-buio, quindi la conversione di una proteina che è la rodopsina. Quindi è il passaggio luce-buio che viene favorito dagli anticianosidi. Questo le fa capire che qualsiasi forma lei ha e in qualsiasi modo lei lo prenda, l'organismo ne trae vantaggio per la proporzione di cui ne ha bisogno. Quindi non è che cambiando le concentrazioni noi facciamo la vista di falco, assolutamente no. E poi gli antocianosidi, come abbiamo detto, non servono a proteggere i recettori, ma solo a convertire chimicamente, biochimicamente, la rodopsina. Andrea, soddisfatto? Giusto. Non posso rimborsarla, ma posso chiederle soddisfatto. Invece possiamo passare alla seconda domanda. Grazie, molto gentile. Mi dica. Volevo solo sapere, però, per quanto riguarda i capillari retinici, è tutta salute. Cioè, per chi ha avuto un ritocco alla retina per un distaccamento di retina, anche parziale così, se non erro, ok, non mi protegge per la vacanza, tra virgolette, però se non altro mi va a rinforzare i capillari retinici. È la miglior cosa che c'è in commercio, il mirtillo e la luteina, per queste cose, oppure c'è qualcosa di meglio, o alla fine mi fa poco come a livello di prevenzione per rinforzare retina e vitreo anche a fronte di una forte miopia. No, questo può andare molto bene. Comunque, se si collega e vede EDTRS su via internet, si rende conto che esistono in commercio vari prodotti che contengono più sostanze, e tutte quante sono additate per dare alla retina una protezione dei capillari abbastanza elevata. Questo può andare molto bene. Quindi Andrea può andare di mirtillo. Può andare di mirtillo. Può andare di mirtillo. Andrea, buone vacanze. Grazie. Come si chiama il sito che non mi è sfuggito? www.commissionedifesavista.it. Molto gentile, grazie per le vostre risposte. A lei Andrea. Andiamo a Silvio da Venezia. Buongiorno Silvio. Sì, buongiorno. Io volevo un'informazione. Dunque, io ho avuto una congiuntivite non poco tempo fa con delle lenti giornaliere, in quanto io sono miope, e togliendo appunto le lenti erano secche, mi è arrivata una congiuntivite. Adesso che vado spesso al mare o comunque in auto, ho delle difficoltà visive per quanto riguarda la luce. La luce adesso la vedo meno intensa, quindi ho proprio delle difficoltà. Chiedevo se era dovuto a questo, diciamo, a questo problema della congiuntivite oppure no. Grazie Silvio. Ma Silvio, lei li mette gli occhiali da sole? Io sì, raramente. Ho anche, diciamo, porso degli occhiali da vista, però insomma ho questa difficoltà di alternare le lenti con gli occhiali da vista. Grazie Silvio. Stia lì però, che magari il dottor Lo Perfido ha bisogno di lei. Dottore. Benissimo, allora ha sollevato vari problemi. Il primo è indubbiamente che un occhiale da vista deve essere anche da sole, e questo è quanto mai opportuno. La seconda cosa è che quando le lenti a contatto sono secche, vuol dire che il rapporto tra idratazione della cornea e idratazione della lente sono deficitarie. La lente tende a seccarsi, quindi si attacca come un effetto ventosa sulla superficie corneale e dissipitalizza la cornea. E questo dà indubbiamente dei grossi problemi, non solo di visibilità, quindi il visus scende, ma anche il contrasto della luce cambia. Quindi vuol dire che il concetto fondamentale non è la congiuntivite, ma probabilmente la cheratocongiuntivite, cioè la cornea asciutta. Quindi va idratata molto di più la sua cornea, e probabilmente vanno sostituite le sue lenti a contatto con lenti a bassa idratazione, perché la lente a contatto più ad alta idratazione è, più assorbe lacrima, più ne ha poco disponibile per la sua cornea. Invece si pensa, no, dato che la cornea deve essere idratata, lenti ad alta idratazione sono più fisiologiche, tra virgolette. Invece ogni occhio, ogni cornea, a seconda delle sue caratteristiche, deve avere la lente adeguata, che può essere bassa o alta. Perfetto, perché comunque quello che idrata sia la cornea che la lente a contatto è la nostra lacrima. Noi diamo poca importanza alla lacrima, ma la lacrima è fondamentale, perché non solo lubrifica, migliora gli attriti e quindi evita che la cornea possa subire degli attriti e quindi una dissipitalizzazione, ma soprattutto deve nutrire, oltre che idratare, la superficie corneale. E quando questo manca, abbiamo uno shunt passivo in cui la cornea tende a asciugarsi e quindi a dare tutti i sintomi che le ha manifestato. Allora, dottore, vogliamo entrare nel negozio dell'ottico? Abbiamo già fatto una scelta. Entriamo nel negozio dell'ottico e non compriamo gli occhiali sulle bancarelle. Costano meno, ma i rischi ci sono. Come li scegliamo? Iniziamo dal materiale. Allora, innanzitutto bisogna distinguere chi è l'utente. Può essere il bambino, e non va sottolineato questo concetto, perché oggi solamente l'11% dei bambini usa gli occhiali da sole, ed è veramente un grosso peccato. Di quelli 11, magari buona parte sono comprati presso le bancarelle e la cosa non va bene. Quindi il materiale, per chi guida e per i bambini, indubbiamente lenti organiche, quindi infrangibili. Sì. Esistono anche lenti ad altissima protezione, che sono le lenti in policarbonato. Queste sono ancora più resistenti di quelle infrangibili. Sì, policarbonato. Quindi sono lenti estremamente particolari, e una volta scelto il tipo di materiale, dobbiamo scegliere il tipo del colore della lente. Allora, se noi siamo dei soggetti con dei difetti visivi, dobbiamo considerare che il miope, per esempio, predilige i colori sulla frequenza del marrone. Quindi, perché il miope vede molto meglio sul rosso, e la frequenza è quindi quella del marrone. Nel caso invece degli ipermetropi, dobbiamo andare su lenti che sono sul grigio-verde. Questo concetto diventa invece molto più aperto qualora uno non ha difetti visivi. Certo, poi c'è un'altra categoria di lenti, che sono delle lenti fotocromatiche, che sono quelle che cambiano colore a secondo l'intensità dell'UV. Sì. E queste lenti vanno benissimo come lenti da città e come lenti da uso giornaliero. Chiaramente anche qui c'è una grossa differenza tra lenti fotocromatiche di prima e di ultima generazione, che vengono chiamate Transition 6, che hanno la capacità di diventare veramente molto scure. E di questo continueremo a parlarne. Ho ancora 20 secondi per sentire Pier Vittorio da Roma prima di andare ai mercati. Dalla regia mi dicono di sì. Pier Vittorio, possiamo stare insieme. Bene, allora buongiorno e grazie. Io porto gli occhiali multifocali da una decina d'anni e nell'ultimo mese ho una particolare, mi sembra, roteando gli occhi da destra a sinistra, mi si accendono come dei lampi, come se mettessi la freccia, in sostanza. Pier Vittorio, lei è troppo simpatico. Roteando gli occhi si accende la freccia. Dottor Lo Perfido, che cosa può essere? Allora, certamente non sono lenti multifocali, probabilmente lei può essere un miope alle spalle. Comunque resta il fatto che qualora veda dei lampi si faccia visitare subito un oculista, perché può essere un problema retinico, oppure, se vogliamo essere meno allarmisti, può essere il vitreo che, tirando sul piano retinico, può creare delle condizioni in cui la retina emette segnali luminosi. Se il vitreo tira sul piano retinico, lo mette in vibrazione il piano retinico, che emette segnali luminosi, come vibrando una corda di una chitarra questa suona. Quindi qualora lei abbia dei lampi, muovendo l'occhio si faccia visitare, perché può essere un problema minimo, ma anche un problema invece un po' più pesante. E torniamo a parlare di occhiali da sole. Ma dottor Lo Perfido, voglio leggerle un sms di un ascoltatore che dice: ma come mai, perché adesso abbiamo tutti bisogno degli occhiali da sole? Insomma, viviamo, il sole è sempre esistito, e quindi è con lui l'uomo, no? Per cui ci siamo sempre dovuti confrontare un po' con questa luce. Abbiamo delle risposte? Lei è un grande studioso della storia della medicina. Sì, è vero. Allora, dobbiamo ricordarci che il problema di proteggerci dal sole è sempre esistito. Nerone usava uno smeraldo per proteggersi dalla luce del sole. Lui che poteva. Nel Medioevo, fino a quando non è stato poi inventato l'occhiale, soprattutto le donne, ma anche gli uomini, usavano delle grosse tele, dei capelli molto larghi, proprio perché l'esigenza di proteggersi dal sole è grandiosa. E del resto sia Celso che Ippocrate hanno descritto varie patologie oculari, e descrivere una patologia significa descrivere un sintomo. Chiaramente solamente la storia della medicina nel tempo ha potuto determinare che molti sintomi sono legati proprio ai danni che oggi l'attuale medicina riesce a comprendere. 800 24 00 24, se volete parlarne con noi, i messaggi al 349 238 6666. Andiamo a Roma, c'è Alessandra che ci aspetta. Buongiorno. Buongiorno, io volevo porre questo quesito. Non ho problemi di vista, nel senso non ho bisogno delle lenti da un punto di vista correttivo, però sono molto sensibile alla luce del sole. Il mio problema è che qualunque paio di occhiali abbia utilizzato, ho sempre, nel poco volgere di tempo, un fastidio sopra al naso, quasi un peso, e questo mi scatena un mal di testa. È diventato veramente, per cui da una parte sento di averne il bisogno, perché la luce del sole proprio mi dà una cefalea da montatura, Alessandra. Ho provato. Coniamo questa una nota marca che fa occhiali leggerissimi, manca solo quella da provare. Allora, dottore, io poi voglio salutare subito Dino Del Corso, che è in linea con noi, curatore di immagine. Ciao Dino, benvenuto. Buongiorno. Magari anche tu potrai aiutare Alessandra da Roma, se Alessandra ci dà qualche dettaglio in più del suo viso, se ha un viso tondo, ovale, un po' da gatta. Allora, innanzitutto, dottore, perché questa cefalea da montatura? L'abbiamo descritta così, forse non esiste, ma rende bene l'idea. Beh, innanzitutto bisogna rilevare che veramente la signora non abbia dei difetti visivi, perché molte volte ci sono dei cosiddetti difetti latenti che non vengono valutati come tali, e che quindi sono alla base proprio di mancata sopportabilità poi di normali occhiali da sole. Per esempio, se uno ha un'ipermetropia latente, molto spesso non viene riconosciuta e magari quella persona sta usando una lente marrone e questa gli dà fastidio, per esempio. La seconda cosa è che ci possono essere delle cefalee d'appoggio dell'occhiale qualora ci siano delle sensibilità molto elevate, tipo per esempio trigeminale. Quindi bisogna capirne, ecco, la causa. Sembra un disturbo, Alessandra, sembra quasi un disturbo di cui uno, no, non osa magari descriverlo, perché in realtà le ragioni dietro a questo disturbo possono essere tante e diverse. Alessandra, posso chiederle magari se vuole affidarsi ai consigli di Dino del Corso, già che cambierà montatura? Tantissimo, assolutamente. Allora, Alessandra, si descriva a noi. Che Dino del Corso prende appunti? Ma è un viso ovale, gli occhi abbastanza grandi, zigomi sono un po' alti, ma niente di... Bello, no? Ovale, con gli zigomi, Dino del Corso, un viso magnifico. Perfetto, direi. Perché gli zigomi vanno molto di moda in questo ultimo periodo, no? Sì, molto. Mm. E soprattutto il viso ovale, diciamo che è il viso perfetto. È il viso che si può permettere qualsiasi forma di occhiale, di modello, sia che siano modelli squadrati piuttosto che smussati o ovali. È un viso che si può permettere tutto. L'importante è che venga seguito la forma del sopracciglio in modo tale che ci sia un'armonia in tutto il viso. Alessandra, ha bisogno di un consiglio in più? O... No, vi ringrazio tantissimo. Va bene, ci faccia sapere allora se ha trovato la montatura adeguata che non le provoca mal di testa. E mi raccomando, si protegga gli occhi. Grazie Alessandra, buona giornata. Allora Dino, possiamo approfittare ancora per chi magari non ha il viso ovale di Alessandra con gli zigomi, ha un viso un pochino più tondino, paffutello. Allora, quando si ha un viso tondo, quindi una fronte alta, una mascella tondeggiante, il consiglio che diamo è quello sempre di utilizzare delle montature che aiutino ad allungare ed affinare il viso. Quindi avremo delle montature orizzontali sottili, quindi dobbiamo cercare quelle montature che non siano eccessive, perché altrimenti occupano troppo spazio e tendono a far diventare il viso rotondo. Sì. E tendenzialmente rettangolari, perché in questa maniera va in contrasto con le linee del viso e si crea un certo movimento che tende ad affinare il viso. Quindi col viso tondo la forma ideale è il rettangolo. Rettangolare, sì. Ok, che altro tipo di viso possiamo descrivere? Quello un po' triangolare, a gatto? Ecco, sì, il triangolare è quello che tendenzialmente nelle donne è facile identificare. Qui si ha la possibilità di scegliere tra diverse montature, sempre sicuramente leggere, in quanto la parte alta del viso è quella più in evidenza. Però si consiglia qualsiasi montatura, l'importante è che dia molto valore agli occhi, quindi non montature che troppo brulluccicose o troppo ornate, ma delle montature lineari che siano in armonia con l'occhio stesso. Allora, come colori, di solito d'estate uno si sbizzarrisce, colorato, il bianco va molto di moda. Sul colore ha da dirci qualche cosa? No, sul colore diciamo che tende un po' a quella che può essere la carnagione della persona e al colore dei capelli. Sicuramente sempre qui si va in contrasto. Chi ha una carnagione chiara tenderemo a dargli dei colori magari un pochino più forti, in modo tale che l'occhiale, visto che ormai è diventato un accessorio importante, venga in evidenza. Se si ha dei capelli biondi si possono cercare dei colori scuri, quindi bisogna sempre pensare all'occhiale come un accessorio che ci aiuta a valorizzarci e quindi è necessario che sia in evidenza. E dobbiamo anche vederci belli bene, e bene. Sicuro. Quello sicuro. Allora, grazie Dino del Corso per essere stato con noi, grazie buona giornata. Buona mi raccomando giornata. Anche a lei gli occhiali da sole. Sempre. Poi lei sa scegliere quelli giusti per il suo viso, quindi va a nozze. Dottor Loperfido, Gilberto ci chiede se che cosa ne pensa di quelle alette, Gilberto le chiama protesi, che si alzano e si abbassano, che si usano sopra gli occhiali da vista. È un'ottima alternativa in due casi. La prima è alla guida. Può essere fondamentale, infatti è un consiglio che do a chi ha comunque un occhiale da sole e anche un occhiale da vista magari con lenti bianche, di usare un filtro aggiuntivo, così viene chiamato, basculante, da usare soprattutto in auto. Perché? Perché il passaggio luce-buio, come può essere nelle gallerie, ci porta all'esigenza di sollevare immediatamente il filtro e quindi di abbassarlo quando siamo di nuovo in presenza di una luce elevata a fine galleria. Quindi questo può essere un occhiale molto utile. Abbiamo Roberto dalla provincia di Roma e Christian da Milano, ma voglio leggere il messaggio di Paolo, ottico contattologo, che fa una precisazione. Non si consigliano più le lenti a contatto a bassa idratazione, bensì lenti a contatto con glicero polimero o con fosforicolina utilizzate su corne con scarsa idratazione, eccetera. Insomma, bisogna passare le giuste informazioni, sottolinea Paolo. E allora, dottor Lo Perfido, diamole queste giuste informazioni. Intanto ringraziamo Paolo dello spunto. Lo ringrazio, sì, perché è giusto. Sono delle lenti, materiali nuovi, altri sono in idrogel silicone, e sono dei materiali nuovi che indubbiamente hanno una percentuale di acqua diversa, ma soprattutto hanno questo materiale che tende a non modificarsi in un eventuale processo di disidratazione corneale, disidratazione della lente, quindi il processo di avere poi una disidratazione anche della cornea. Indubbiamente sono lenti di ultima generazione, sono d'accordo con il contattologo, e quindi questo messaggio va esteso, va allargato proprio in virtù dei nuovi materiali, che soprattutto però devono tenere presente, siamo in estate, che questi nuovi materiali devono anche concepire delle lenti a ricambio frequente, in alcuni casi anche giornaliere, quando siamo al mare e abbiamo l'opportunità o l'esigenza di un ricambio frequente. Per quali motivi? Uno, l'acqua del mare contiene, quando si asciuga, sale, e il sale molto spesso tende o a disidratare la lente oppure a rovinarla, quindi un ricambio frequente può essere utile. E il secondo motivo è la sabbia, perché molte volte la sabbia si insinua tra lenti a contatto e cornea, creando non pochi problemi. Quindi il passaggio è alle lenti giornaliere, usa e getta? Soprattutto nel periodo quando questo è possibile, perché non tutti i casi sono estendibili, certo, con lenti giornaliere, però quando questo è possibile, indubbiamente passare a delle giornaliere solo nel periodo estivo può essere un consiglio. Abbiamo un minuto prima di andare alle strade, perché Giorgio Mattei è molto preciso, non vuole che io sfori, e allora Roberto dalla provincia di Roma, buongiorno. Pronto, buongiorno a tutti e grazie per avermi dato questa possibilità. Brevemente, allora, la passione del SUV. Sì. Chiedo se è opportuno mettere lenti a contatto e in più la maschera, logicamente, oppure la versione maschera con le lenti graduate, che hanno un costo notevole rispetto alle lenti a contatto. Immagino. Non so se posso fare un'altra domanda. Iniziamo con questa, poi andiamo, il dottor Lo Perfido risponde, poi andiamo insieme alle strade e ritorniamo, così Giorgio Mattei è contento, se no me le dà. Dottor Lo Perfido, quale consiglia lei? Allora, indubbiamente, giustamente, la passione della subacquea determina la prima domanda, che è a quale profondità? Perché le lenti a contatto, per esempio, non a tutte le profondità sono sopportate con opportuna, diciamo, soddisfazione, e indipendentemente dal fatto che la maschera comunque crea un ambiente comunque idoneo. Ma sappiamo che la lente a contatto ha bisogno non solo di un ricambio fimacrimale, ma un ammiccamento della palpebra che sia opportunamente valida anche a quelle profondità. Quindi tra le due realtà sarebbe molto molto più valida usare una maschera con lenti che abbiano veramente incastonate all'interno la sua gradazione. Ce ne sono di ottime, e soprattutto ce ne sono anche di maschere che hanno queste lenti interne sostituibili, quindi avere una doppia protezione di una lente normale all'esterno e la maschera che ha una seconda lente all'interno che rappresenta la sua gradazione e che può essere sostituita, così i costi si riducono. Ed eccoci di nuovo insieme a Roberto dalla provincia di Roma. Roberto, mi sa allora che lei debba prendere la maschera con le lenti. E qua io lo so già che quando c'è tra spendere poco e spendere di più, ci tocca spendere di più. E vabbè, insomma. La seconda domanda, Roberto. Oh, allora, non so se già ve l'hanno posta, è semplicemente se la soluzione fisiologica può sostituire il liquido lacrimale artificiale. Sì, grazie Roberto, penso che il dottor Lo Perfido abbia già capito, vedo che già è pronto a rispondere. Non è sempre così, perché il pH lacrimale è un pH variabile, quindi a volte può non andare bene, quindi dipende moltissimo dal pH e dalla quantità di lacrime che lei ha. è vero che la soluzione fisiologica è intorno a un pH intorno al 7, ma molte volte ci sono delle variabilità. Indubbiamente queste variabilità sono più elevate nella donna che nell'uomo, ma ci possono essere. Come si fa però a riconoscere, a capire se possiamo usarlo o no? Così diamo anche delle indicazioni a livello generale, almeno sapere le cose che non dobbiamo fare. Beh, innanzitutto non mi ha definito per quali lenti a contatto sono. Mi auguro che intenda per lenti a contatto. C'è ancora Roberto? Sì, usa e getta. Sì, con le usa e getta non dovrebbero esserci di grossi problemi per idratare l'occhio. Se però dovesse avere l'occhio che con quelle brucia o subito diventa asciutto, è perché quella lente ha cambiato quella soluzione fisiologica ha cambiato l'osmolarità della lacrima, il pH della lacrima, e quindi può darle del fastidio. Se sente dei fastidi, dei bruciori o una lente che tende a asciugarsi piuttosto rapidamente, vuol dire che non siamo nella strada giusta. Cristian ci chiama da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Siamo pronti per la trasmissione. Grazie, siamo pronti, Cristian. Qual è la sua domanda? Sì. Allora, io sono miope. Ho sempre cercato di non portare gli occhiali perché mi danno fastidio. E poi mi sono dovuta arrendere circa un anno e mezzo fa, quando l'oculista mi ha riscontrato un -2,25. Sì. E mi ha prescritto le lenti da -2. Queste le prime le facciamo un po' più tranquille. E sono andato dopo qualche mese, quindi un anno fa, dall'ottico, che mi ha riscontrato invece un -2,50, però sempre con le lenti da -2. E le sto portando da circa un annetto, però mi danno fastidio. Quanti anni ha Cristian, mi scusi? 29, appena compiuti. Perché sentivo dalla voce giovane, non so se l'età può essere un criterio anche per la scelta. Dottor Lo Perfido. Ok, allora il primo discorso, io sono sempre dell'idea, anzi sono estremamente convinto che la correzione deve essere quella più giusta possibile. Sottocorreggere molto spesso spasmizza l'occhio e soprattutto già il miope al crepuscolo, quindi nel passaggio luce buio del crepuscolo, già il miope vede meno. Quindi io sono sempre dell'idea che va corretta nella sua totalità la miopia. Al di là di questo, sappiamo che fino a -3 il rapporto tra lenti a contatto e occhiali è uguale, quindi non c'è differenza. Oltre il -3 possono esserci differenze a secondo del tipo di lenti, giornaliere, mensile e così via. I criteri per cui considerare anche una lente a contatto sono tanti. Il primo è quanta lacrima ha, quindi valutare la lacrimazione, se non soffre di allergie o meno. L'allergia non è una controindicazione assoluta, ma lo è relativa, cioè nel senso che una lente cambiata tutti i giorni fa in modo che una lente che da sola non darà mai allergia, perché la lente a contatto non dà allergia, dà allergia a quello che si deposita sulla lente, quindi con un ricambio frequente di lente è difficile avere una reazione dell'occhio nei confronti della lente stessa. E poi in base a quello scegliere la lente idratata in maniera giusta. Come abbiamo detto attraverso anche il nostro Paolo, ottico contattologo, perfetto, che ci ha scritto un altro messaggio per dire che insomma grazie, la puntualizzazione è stata corretta e quindi va bene. Perfetto, quindi proprio grazie a centri che sono piuttosto validi, anzi molto validi per quanto riguarda la contattologia, e l'espressione di rapporto tra quello che noi identifichiamo come problema, lacrima, occhio asciutto, allergie, viene identificata una lente che sia idonea. Idonea non solo come idratazione, non solo come materiale, ma anche come portabilità, cioè mensile, giornaliera, quindicinale e così via. Allora, stiamo nelle lenti, dottore. Diamo delle indicazioni e mi verrebbe dire raccomandazioni a chi proprio in estate passa dagli occhiali alle lenti, perché sono più comode, non suda il punto di contatto con la montatura, insomma gli occhiali a volte impicciano e quindi si preferiscono le lenti. Ma dottore? Ma allora, conviene giustamente, come dicevo, passare delle lenti giornaliere, soprattutto nel periodo estivo, quando questo è possibile, proprio perché la lente è fresca, nuova e non ha dei depositi sulla lente stessa. La seconda cosa è molto importante, è l'uso della lente nell'arco della giornata, perché siamo in un ambiente molto caldo, siamo al mare, quindi la lente tende a disidratarsi con molta facilità, quindi l'uso magari di qualche lacrima artificiale in questo caso non sarebbe sbagliata. La terza cosa è se andiamo in piscina mi raccomando togliere la lente a contatto, se si è andato in piscina con la lente a contatto, subito dopo, perché il cloro fa modificare il pH e quindi fa in modo che la stessa lente abbia assorbito all'interno della propria struttura, della propria maglia, del cloro e questo possa rendere l'occhio ancora più rosso. La quarta cosa molto importante, mi raccomando, chi non si accontenta di una abbronzatura naturale ma passa a una abbronzatura artificiale, di usare gli occhialini di protezione e soprattutto di non farlo mai con le lenti a contatto inserite, perché quando con molta facilità la palpebra non riesce a contenere una lacrima giusta, perché la lacrima tende a evaporare e la lente a contatto al di sotto tende a disidratarsi, questa può incollarsi sulla cornea e creare dei problemi molto molto seri. Vorrei rispondere a Kumar che ci scrive: sono camionista, che tipo di occhiali usare quando guido? Così rispondendo a lui rispondiamo a tanti sms. Lei ha detto per la guida vanno molto bene quelle sovralenti, chiamiamole così, a cui faceva riferimento un sms di un ascoltatore, ma... Ma ci sono anche lenti, ci sono adesso marche famose, non solo come montature ma anche come lenti, che hanno identificato e idealizzato delle lenti proprio da guida, che hanno un'assorbenza del circa 70% dell'ultravioletto, ma soprattutto che rispondono molto bene al contrasto di luce. E queste sono lenti che possono essere portate non solo al mattino, ma anche nel tardo pomeriggio, dove una lente molto scura al limite potrebbe dare fastidio. Allora io direi di restare non nel camion, o anche nel camion, anche in macchina, perché in linea con noi abbiamo il professor Foti. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno colleghi, buongiorno ascoltatori. Grazie, ordinario di medicina fisica e riabilitativa dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Professore, io ho bisogno di lei perché vorrei, adesso è tempo di spostamenti, anche in macchina vogliamo stare freschi, come succede nelle nostre abitazioni o in ufficio, però tante volte orientiamo questi getti d'aria e ci alziamo alla fine del viaggio che siamo tutti incriccati. Allora, consigli per la partenza, per stare freschi ma non pagarne poi il prezzo. Ma i consigli sono diversi. Intanto cercare di climatizzare l'ambiente dell'abitacolo dell'automobile a temperature non eccessivamente inferiori rispetto a quella esterna, quindi climatizzare sì, ma non in eccesso. In secondo luogo bisogna assolutamente evitare i getti rivolti verso il proprio corpo, quindi evitare getti rivolti verso le dita, verso il gomito o ancora di più verso il viso, verso gli occhi, perché potrebbero determinare delle patologie molto molto fastidiose, specie in questo periodo. Dottor Lo Perfido, il professor Foti faceva riferimento agli occhi, perché anche gli occhi soffrono, vero? Assolutamente sì, perché quando l'aria condizionata è rivolta verso il viso, è vero che ci dà della frescura, ma contemporaneamente fa asciugare enormemente l'occhio e quindi soprattutto se portiamo lenti a contatto potremmo avere molto molto fastidio, perché il rapporto tra ammiccamento della nostra palpebra nei confronti della lente a contatto diventa un ammiccamento indubbiamente incostante, sia come quantità di ammiccamento come qualità di ammiccamento, e quindi la lente tende ad asciugarsi. Professor Foti, andiamo a casa. Casa in questo casa periodo, dolce casa, ma a volte è bollente, quindi anche qui è una buona norma quella di ventilarla intanto inizialmente anche con dei ventilatori a pala, un po' come si usa nei paesi arabi, o ancor meglio naturalmente raffreddarla con i condizionatori o i climatizzatori. Anche lì bisogna seguire queste istruzioni semplici, cioè bisogna evitare che la temperatura di casa sia eccessivamente bassa rispetto alla temperatura esterna. Quanti gradi di meno lei suggerisce? Questo non è facile. 3, 5, 2. Non è facile definire i gradi, perché dipende molto dalla temperatura esterna, però non bisogna chiedere all'ambiente che ci ospita di mantenere 20 gradi o 21 gradi in un periodo in cui fuori sono 30-35 gradi, quindi si può anche accettare una temperatura di 26 gradi, 27 in casa, che può dare la sensazione di caldo, ma in effetti è sempre un caldo molto molto meno torrido rispetto a quello esterno. Anche in casa consiglio vivamente di evitare i getti d'aria che arrivino direttamente sulle poltrone o sui letti, perché questi sono sicuramente nocivi per le strutture osteoarticolari, cioè possono creare dei dolori o problemi di svariata natura. E ancora ribadisco l'idea che un ventilatore, a volte un ventilatore a pale, può in qualche modo sollevarci da alcuni di questi fastidi. Vero, torniamo alle vecchie e salutari, mi verrebbe da aggiungere Pale. Professor Foti, la ringrazio per essere stato con noi. Io ringrazio tutti quanti voi e i suoi ascoltatori. Buona giornata al professor Foti. Dottore, io la ringrazio, ci ha veramente dato una mano a parlare di protezione, che è prevenzione in questo caso. Vi rimando al Vademecum, lo potete trovare sul nostro sito, ma sul sito della Commissione Difesa Vista, che naturalmente ha lavorato proprio per dare a tutti noi la possibilità di sapere i fondamentali per proteggere i nostri occhi. Salutiamoci, ma ci sentiamo presto. Volentieri, grazie a tutti e spero di risentirci, ma soprattutto di rivederci. E per dirci rivederci dobbiamo salvare i nostri occhi e proteggerli. Grazie dottor Lo Perfido, noi ci sentiamo, non ci vediamo ma ci sentiamo domani dopo il GR delle 11. Buonissima giornata.